Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. L'Europa guarda ad est. Questa sera a Riga si apre il vertice del partenariato orientale, un fronte complesso per l'Europa per le implicazioni internazionali e i rapporti con Mosca. Un fronte complesso, come molti ammettono, a cominciare dalla Germania, dove questa mattina ha parlato davanti al Bundestag la cancelliera tedesca Angela Merkel. Vor fast genau sechs Jahren haben die Europäische Union und ihre östlichen Nachbarn Ukraine, Moldau, Georgien, Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan gemeinsam eine neue Partnerschaft. Sai, come avete sentito, i paesi cui guarda l'Europa, il partenariato orientale non è diretto contro nessuno, in particolare non contro Mosca, però ha voluto aggiungere la cancelliera. Nell'Europa del XXI secolo non si pensa a sfere di influenza, non si tratta di un out-out per i paesi dell'est, aggiunto, tra l'avvicinamento all'Unione Europea da una parte, mentre i russi desiderano un avvicinamento dall'altra parte. Peraltro, l'area in questione è delicata anche dal punto di vista economico. Germania, Polonia e Italia sono tra i primi partner commerciali della regione. La sola Italia ha esportato per 2,8 miliardi di euro nel 2014. Insomma, toni morbidi con la Russia e avvicinamento che non è dei più semplici. E allora facciamo il punto. Questa volta ci si andrà coi piedi di piombo dopo l'esperienza dell'Ucraina, con buona pace di Georgia, Moldavia e dell'Ucraina stessa, che avendo già firmato l'accordo di associazione con la UE vorrebbero procedere con speditezza verso il partenariato. L'imperativo però è non riaprire tensioni con Mosca. Così, nelle bozze dell'accordo che si discuterà a Riga, secondo Euronews, si affermerà genericamente il diritto sovrano di ogni partner a scegliere il livello di ambizione e gli obiettivi a cui vuole aspirare in relazione all'Unione Europea. Nulla a che vedere con i toni categorici del summit di Vilnius nel 2013, quando si riconoscevano le aspirazioni europee di alcuni partner orientali e ci si impegnava a sostenerle. Anche sulla condanna dell'annessione della Crimea da parte della Russia, la UE è pronta a trattare. Armenia e Bielorussia non sarebbero disposte a firmarla e, secondo fonti europee riportate dall'ANSA, il rifiuto non avrà ripercussioni sul vertice. Nemmeno dal punto di vista pratico ci si aspettano grandi risultati. Ucraina e Georgia non avranno la desiderata liberalizzazione dei visti. Hanno fatto progressi, ha detto il commissario all'allargamento Hahn, ma sono ancora lontani dalle condizioni necessarie. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Lavori che si aprono, dicevamo, questa sera a Riga, con sul tavolo però anche altri temi. A Riga c'è Beda Romano. È un vertice dedicato ai paesi del partenariato orientale, quello che si apre oggi qui a Riga, ma nel quale dominerà, volente o nolente, la crisi greca. Secondo la stampa d'Atene, il primo ministro Alexis Tsipras avrebbe voluto discutere con i suoi partner dei difficili negoziati sul futuro del suo paese, ormai vicino a una crisi di liquidità. Il Consiglio europeo ha preferito evitare di mettere il tema ufficialmente in agenda. Se ne parlerà quindi solo a margine. Le trattative tra Bruxelles e Atene per ottenere nuovi aiuti comunitari continuano con alti e bassi. Esponenti comunitari parlano di passi avanti, ma ammettono che è ancora troppo presto per parlare di luce in fondo al tunnel. E grazie, per ora ci fermiamo qui, ma ritroveremo l'inviato a Riga. I leader europei sono attesi attorno alle 20. Questa sera continueremo a raccontarvelo. Un saluto intanto da Anna Migliorati e appuntamento con l'Europa a effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.